parliamo di disarmo nucleare e questa volta lo facciamo attraverso un libro che esce proprio domani, si intitola Disarmo nucleare, è l'ora di mettere al bando le armi nucleari prima che sia troppo tardi, edito da Altra Economia e scritto da Francesco Vignarca, che gli ascoltatori e le ascoltatrici conosceranno bene, coordinatore della rete italiana Pace e Disarmo che sentiamo spesso e che è al telefono con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, io ho già una prima curiosità su questo libro che riguarda la genesi. Quando nasce? Perché ovviamente il tema che affronti è di stringente attualità, visti i rischi che ci sono anche nel conflitto in Ucraina. Però nasce prima o nato proprio anche a causa di questo conflitto? L'idea un po' c'era per raccontare quello che sono stati i percorsi delle organizzazioni che negli ultimi anni si sono adoperate per il disarmo nucleare, come anche la nostra rete Pace Disarmo, Senza Atomica, insomma all'interno della campagna Italia Riferiteci. Però ovviamente il fatto che la minaccia nucleare anche sui nostri media sia diventata più visibile, più presente a causa della situazione in Ucraina, ovviamente rende questo testo, secondo noi, ancora più importante e quindi ancora più utile per le nostre stesse campagne. Va detto che la situazione appunto del conflitto in Ucraina ha modificato questa percezione e ha riportato l'attenzione su qualcosa che noi dicevamo da tempo, cioè il fatto che la questione delle armi nucleari e la loro minaccia non era risolta. Per decenni ci siamo sentiti dire: ma no, è tutto a posto, ormai c'è un controllo, le armi sono meno di quelle di prima, ci fidiamo dei paesi che hanno le armi nucleari. Mentre noi dicevamo, infatti poi abbiamo costruito il percorso verso il trattato sulla proibizione delle armi nucleari, che era un problema da risolvere. Ecco, purtroppo la situazione in Ucraina e il fatto che la Russia utilizzi come ricatto la sua grande arsenale atomico, diciamo che ci rende ancora più convinti delle nostre buone ragioni, della necessità di fare qualcosa. La strada per la messa al bando del nucleare è una strada lunga, c'è proprio anche un capitolo dedicato da questo tema che non comincia adesso, insomma. Sì, davvero si può affermare che la strada del disarmo nucleare nasce il 16 luglio del 45, cioè il giorno del test in Nuovo Messico, quando cioè nascono davvero le armi atomiche, quando davvero nasce un primo loro utilizzo. Ed è questo un po' che si voleva raccontare, abbiamo voluto raccontare nel libro, non solo la situazione, quante testate ci sono, quella situazione dei trattati, la situazione anche legata ai possibili sviluppi dei nuovi arsenali nucleari, ma raccontare anche quanto già è stato fatto per metterle fuori dalla storia. Certamente è un capitolo che dobbiamo ancora scrivere, quello finale delle armi nucleari, però i percorsi già sono stati importanti, hanno visto coinvolgere da subito gli scienziati, tra cui molti di quelli che hanno preso parte al progetto Manhattan, i medici, che sono quelli che si sono resi conto dell'impossibilità di gestire un qualsiasi impatto legato a una qualsiasi guerra nucleare, e poi ovviamente tutte le organizzazioni della società civile, in particolare quelle negli ultimi 15 anni raccolte sotto ICAN, la campagna internazionale contro le armi nucleari, che proprio nel 2017 ha ottenuto prima il trattato sulla proibizione delle armi nucleari, lavorando con tanti stati, e poi per questo motivo anche ha visto l'assegnazione del premio Nobel per la pace. Quella del disarmo nucleare è una posizione ovviamente politica, ma nel tuo libro è suffragata anche da un sacco di dati, di infografiche, quindi insomma non è semplicemente una posizione di principio. Esattamente, anzi quello che si può dire è che leggendo il libro la gente si potrà rendere conto che la vera posizione di principio ideologica è quella dei fautori delle armi nucleari, proprio per la loro natura di distruttiva, proprio per il fatto che scatenerebbero una reazione a catena anche con una piccola guerra nucleare, che comporterebbe non solo la morte di milioni di persone immediatamente, ma anche degli impatti, per esempio, di carestia che potrebbero coinvolgere miliardi di persone, è chiaro che allora diventa insensata una cosa del genere. Cioè un'arma che può distruggere l'umanità, attenzione, l'umanità, non il pianeta, sono due cose diverse, non dovrebbe proprio esistere, perché è contro qualsiasi logica, anche una logica se vogliamo militare. E invece rimane perché? Proprio perché è un'ideologia, è una specie di fede, di credenza, il fatto che le armi nucleari ci garantiscono più potere, più sicurezza. E invece no, è proprio il contrario, è proprio quello che ci mette a repentaglio complessivamente tutti. Ed è per questo che i percorsi del disarmo nucleare devono essere il più allargati possibili, cioè una soluzione ci potrà essere solo collettivamente, coinvolgendo tutti, coinvolgendo le popolazioni, coinvolgendo le società civili, coinvolgendo anche i paesi, che infatti sono stati i protagonisti del trattato sulla proibizione delle armi nucleari, che non le hanno e che sono sempre stati considerati i margini. Invece proprio ribaltando questa prospettiva, noi potremmo arrivare a una messa al bando totale. A proposito di coinvolgimento, nel libro c'è spazio anche per diverse voci di chi, appunto, attivisti e non solo, anche Papa Francesco, si battono per, appunto, arrivare alla messa al bando del nucleare. Sì, volevo proprio scrivere qualcosa che fosse, che desse la visibilità molto evidente, che è un coro di persone, che davvero è una risposta collettiva, che non ci sarà, a mio parere, la decisione di uno o due grandi menti che di colpo si muoveranno per eliminare le armi nucleari, ma che solo con davvero il contributo di tutte e di tutti potremo arrivarci. E quindi mi ha fatto piacere ospitare la prefazione di Beatrice Finn, che è stata per anni la direttrice esecutiva di ICAN e che è colei che per noi ha pronunciato il discorso di accettazione del Nobel, ma anche di tanti altri amici attivisti, penso a Tim Wright, Ray Acheson, che sottolinea addirittura il macismo che sta dietro le armi nucleari, no? Vi ricordate Trump e Kim Jong-un? Il mio bottone rosso è più grosso del tuo. Insomma, c'è anche questa dinamica. Ma poi le voci italiane, come quella di Lisa Clark, che da decenni davvero porta avanti la bandiera del disarmo nucleare nel nostro paese, o di Daniele Santi di Scienza Atomica. Ecco, questo è stato importante. E abbiamo voluto poi anche mettere alcuni discorsi importanti, tanti come quello di Papa Francesco, ma anche come quello di Sergio Cotturlo, una Ibakusha, cioè una sopravvissuta alla bomba di Hiroshima, che nel 45 aveva 12 anni, stava andando a scuola, si è trovata sotto le macerie e nel suo discorso di Nobel che abbiamo riportato ci dice: ho sentito una voce che diceva continua a muoverti, continua a scavare, continua a fare qualcosa, vedrai che ce la fai, e alla fine ho visto la luce. Ecco, mi sembra veramente la perfetta metafora del mondo e degli sforzi per il disarmo nucleare. Noi continueremo a muoverci verso la luce di un mondo senza queste armi. Nel libro parli anche della speranza rappresentata, insomma, dal trattato TPNW, ma insomma viviamo in questi ultimi anni, visto che parlavamo di ideologia prima, di una forte, come dire, in un contesto in cui viene spinta molto l'ideologia bellicista, quindi la battaglia per la messa al bando del nucleare rischia di subire qualche arresto secondo te o ci sono speranze? Purtroppo effettivamente l'anno e mezzo derivante dall'invasione russa dell'Ucraina ha fatto fare davvero tanti passi indietro ai percorsi in generale di disarmo e pace, no? La pace viene vista come una cosa brutta, una cosa addirittura connivente col nemico, e questo non è, se vogliamo, una novità pensando a quello che si diceva dei pacifisti nell'epoca della prima guerra mondiale, ma anche tutti i percorsi di disarmo vengono visti sotto una cattiva luce. Per la prima volta i politici vogliono continuare a esprimere un loro sostegno, ad esempio, all'aumento delle spese militari o nuovi armamenti, cose che magari prima venivano fatte ma non così tanto dette. Quindi questo è sicuramente un problema. D'altro canto, la questione nucleare è stata per anni messa in secondo piano come davvero una questione risolta che solo i fanatici esagerati, i disarmisti volevano tirare fuori, mentre invece adesso tutti ne sono consapevoli, anche se ne sono consapevoli ancora una volta cercando di evitare di parlarne nella maniera giusta. Provate a pensarci, Putin viene descritto come un pazzo criminale con cui non è possibile parlare nemmeno per cercare di fare un negoziato di cessate il fuoco, perché è troppo inaffidabile, tranne che per le armi nucleari. Quando noi diciamo che vabbè, allora se è così inaffidabile è un problema che abbia le armi nucleari, tutti dicono: ma no, non sarà mai così pazzo da usarle, sa benissimo cosa può essere la conseguenza. Ma fatemi capire, o è pazzo, impossibile da parlarci, oppure no. Invece perché proprio su questo punto non viene considerato pazzo? Perché se metti in dubbio il fatto che le armi nucleari siano così pericolose, devi anche farti un'autocritica, cioè criticare il fatto che pure noi, pure i paesi occidentali, basano un grande pezzo della propria sicurezza, almeno nelle loro teorie, sulle armi nucleari, e invece no. Ecco, quindi noi dobbiamo cercare di sfruttare queste cose per un punto particolare: essere il più possibile informativi nei confronti della popolazione, della cittadinanza, della società civile. È l'unica carta che abbiamo in mano. Solo quando tutti saranno consapevoli che il pericolo è troppo grosso, potranno davvero far pressione dal basso, dalle città, Bologna ha appena aderito alla nostra campagna Italia Ripensa, tante altre città nel mondo l'hanno fatto. Ecco, solo in quel modo potremo davvero fare una pressione sui decisori politici e fargli capire che è un rischio inaccettabile. Hai già in programma delle presentazioni del libro? Sì, stiamo cercando di muoverci, ovviamente una delle prime sarà per esempio a Brescia il 26 settembre, perché è il giorno internazionale contro le armi nucleari. E perché dico Brescia? Perché Brescia è la città vicina a Ghedi, la base italiana dove si sono le testate nucleari statunitense, dove purtroppo esistono dei piloti degli aerei italiani che si addestrano e vengono preparati eventualmente a sganciare queste bombe nucleari. Quindi mi sembrava significativo partire anche con le presentazioni da lì, ma poi sicuramente ci sarà Bologna, ci sarà Milano, ci sarà Roma. Cercheremo proprio di utilizzare, e quindi vi ringrazio anche per questo spazio, il libro come strumento di campagna, come strumento di consapevolezza. Ed è per questo che da un lato ci sono i dati, ci sono le informazioni, ma dall'altro c'è anche la storia e le prospettive del disarmo nucleare, per non far pensare che è un problema talmente grosso che non ci possiamo fare niente. No, le cose si possono fare, ognuno può fare il proprio pezzo, e speriamo davvero che il libro serva anche in questo senso. Allora io, Francesco, ti ringrazio e ricordo il titolo del tuo libro, Disarmo nucleare, è l'ora di mettere al bando le armi nucleari prima che sia troppo tardi, edito da Altra Economia e da domani in libreria. Grazie mille, Francesco. Grazie a voi, a presto.